Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo un paio di giorni, mentre la nostra nave continuava la sua lotta e la Guardia Costiera americana assegnava una potenza di scala 16 alla tempesta in atto in Atlantico, sorgeva per noi un altro serio problema. Non sapevamo dove eravamo. Sono Giorgio, abito a Milano, anche se sono genovese di origine. Sono ormai un pensionato, ma da ragazzo, da giovane, ho navigato sulle navi mercantili e una certa esperienza. Poi ho smesso di navigare, ho lavorato in terra sempre nei trasporti ed ora sono in pensione qui a Milano. Il capitano McQueer aveva percorso la superficie degli oceani come certi uomini scivolano sugli anni dell'esistenza per sprofondare dolcemente in una tomba tranquilla, ignoranti della vita fino all'estremo, senza avere mai avuto modo di vedere quanta perfidia possa trovarvisi, quanta violenza, quanto terrore. Vi sono, sul mare o sulla terra, uomini così fortunati o così disdegnati dal destino e dal mare. E osservando la costante discesa del barometro, il capitano McQueer pensò: c'è del cattivo tempo in giro. Ecco, questo è esattamente quello che pensò. Aveva sperimentato del tempo moderatamente cattivo, nel senso che il vocabolo cattivo applicato al tempo non implica che un moderato disagio per il marinaio. Se fosse stato informato da un'autorità indiscussa che la fine del mondo sarebbe avvenuto a suo tempo in conseguenza di un catastrofico turbamento dell'atmosfera, avrebbe identificato questa informazione con la semplice nozione di cattivo tempo e con nessun'altra, perché non aveva esperienza di cataclismi e perché credere non implica necessariamente comprendere. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, noi siamo in diretta come tutti i giorni con questo programma che si chiama Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo una storia e la storia che raccontiamo oggi è la storia di Giorgio, ma le righe che vi ho appena letto in questo momento sono tratte dall'inizio, dai primi capitoli di Tifone di Conrad. L'ho letto perché appena abbiamo letto il racconto di Giorgio, io e Tiziano, che siamo un po' patiti di Conrad, ci siamo detto: quella roba lì è Tifone, è la storia di una delle più grandi tempeste che possa colpire una nave in mezzo all'oceano e di come di quell'equipaggio ne esce e arriva a casa. Perché ogni tanto arrivano storie così, ogni tanto arrivano storie di vita normale, come quasi sempre succede, di quotidianità, di passato, di infanzia, d'amore, di lavoro. E poi ogni tanto capita che c'è qualcuno come Giorgio che durante la giovane età, a 19 anni, ha attraversato gli oceani su delle navi da crociera e si è trovato anche in mezzo a delle tempeste. 349-238-6666, se siete stati in mezzo alla tempesta e volete raccontarcelo, bene, altrimenti ascoltatevi questa storia. Voi siete qui Radio 24 sul profilo Facebook, voi siete qui R24 su quello Twitter, quindi cancellate tutto, ovunque voi siate, in auto, in ufficio, dimenticatevelo, per un quarto d'ora siete nel 1950 e siete in mezzo all'Oceano Atlantico. L'avventura che mi accingo a raccontare accadeva a me e ad altre 30 persone di equipaggio ben oltre 50 anni fa, nell'inverno del 1957-58, mentre a 19 anni, in attesa di pervenire alla patente di capitano di lungo corso, svolgevo il mio tirocinio di allievo ufficiale di coperta su un mercantile genovese battente bandiera liberiana. Io ero imbarcato da circa un anno e in pratica facevo l'assistente del comandante con mansioni da terzo ufficiale, ma ero tutt'altro che un lupo di mare e sognavo di ritornare a casa. La nave, di nome Continental, era un tipo Liberty in versione canadese che aveva fatto la guerra per gli americani e poi ceduta agli armatori europei nel quadro del piano Marshall. Era lunga circa 130 metri ed aveva ancora macchine a vapore. Dopo varie andate e ritorno tra Europa ed America, quella volta, in un gelido giorno invernale, dopo aver fatto il pieno delle stive di un minerale nerastro in un piccolo porto semifluviale del Maine, ci toccava prendere il largo con destinazione Nord Europa e, appena giunti in mare aperto, mettere conseguentemente la prua ad est-sud-est verso il lontano imbocco sud della Manica. Avevamo davanti a noi l'intero Nord Atlantico. Ho deciso di iscrivermi all'Istituto Nautico di Genova perché era un sistema per andare all'Accademia Aeronautica, volevo fare il pilota di aeroplani. Poi, siccome sono di statura piuttosto alta, ero 1,94, all'Accademia Aeronautica, dopo 3 giorni di prove varie, sono risultato inabile per l'eccessiva altezza, non adatto a guidare un aereo. In teoria, avendo la corrente del Golfo quasi in poppa, ci aspettavamo una traversata tormentata dalla stagione, ma veloce. Mai, però, avremmo pensato a quello che poi è risultato essere un viaggio avventurosissimo, ma rapido oltre l'immaginabile. Subito fin dalla prima notte, mentre ci giungevano via radio, allora si usava ancora il codice Morse, mentre ci giungevano, dicevo, continui segnali di pericolo da parte della Guardia Costiera americana, il vento e il mare salivano rapidamente di forza, colpendoci di poppa e rendendoci sempre più difficoltoso il governo del timone e quindi il mantenimento della rotta. Le onde stavano assumendo una dimensione tale in altezza e lunghezza che la nave spesso risultava più corta della singola falda ondosa che sopraggiungeva la poppa e quindi veniva non solo sollevata bruscamente ma immediatamente dopo fatta scivolare in avanti con l'intera prua immersa fino all'alberetto e la poppa sollevata quasi fuori dall'acqua. Spesso avanzavamo insieme all'onda per centinaia di metri in questa strana posizione di discesa, prima di essere superati dalla cresta tumultuosa e ritrovarci nella gola, in attesa dell'onda successiva. Oggi si direbbe che facevamo del surf, ma non c'era niente di divertente. Dopo un paio di giorni, mentre la nave continuava il suo incredibile surf e la Guardia Costiera americana assegnava una potenza 16 alla tempesta in Atlantico, vero record fino ad allora ancora mai registrato. Ecco, in quei giorni sorgeva per noi un altro serio problema. Non sapevamo dove eravamo. And I go down to the river and everyone's asleep. And I dream of handsome Molly and I sit right down and weep. I wish I was in London or some other seaport town and set myself steamship and I'll sail this ocean around. While sailing around the ocean, while sailing around the sea, I dream of handsome Molly wherever she might be. Ci era impossibile fare un punto nave se non con fortissima approssimazione. Il GPS e le altre diavolerie moderne non esistevano ancora e il radar aveva una portata ben limitata, 25-30 miglia. Eravamo quindi condannati a correre, ma non potevamo verificare se la direzione era quella giusta. Il comandante mi appariva preoccupato perché non era affatto certo di riuscire ad imboccare la manica se la situazione non migliorava. A complicare il tutto c'era stato nel frattempo l'allagamento di tutti i locali abitabili e di servizio della nave. Gli alloggi degli ufficiali e dell'equipaggio erano inutilizzabili, eppure pericolosi, per cui ci trovavamo in una ventina di persone a muoverci e a riposare in 30 metri quadri sul primo e sul secondo ponte. Al pomeriggio del quarto giorno, mentre il maltempo non accennava a quietarsi, il comandante ordinava al secondo ufficiale di uscire in coperta con un gruppo di marinai, legandosi opportunamente, per verificare ed eventualmente rincalzare le coperture telate delle 5 stive. Era evidente che la salvezza della nave dipendeva dalla tenuta di quelle coperture che coprivano i boccaporti delle stive. Dopo circa 15 minuti, un paio di marinai rientrava sul ponte di comando annunciando, con pianti a dirotto, che un loro compagno, un pugliese, il più anziano del gruppo, nonostante i legacci, era scomparso in mare, travolto da un'onda. Mentre tutti noi ci disperavamo, ecco, dopo pochi minuti, la sorpresa. Rientravano anche il secondo ufficiale e gli altri marinai, tenendo stretto a loro il corpo quasi esanime del compagno dato per scomparso in mare. Travolto dall'onda, era stato spostato 40 metri più avanti, ricadendo ancora in coperta dove fortunatamente si trovavano i compagni pronti ad afferrarlo. È stata una cosa indescrivibile, che peraltro sono un pavido, come persona sono abbastanza un fifone, però in quell'occasione c'era davvero pericolo, lo assicuro. La scena che era seguita a questo rientro l'ho ancora davanti agli occhi dopo 50 anni e non so descriverla senza commuovermi ancora. Il resuscitato si era buttato ai piedi del comandante piangendo, baciandogli ripetutamente le scarpe e chiamandolo Gesù. Tutti noi, anche quelli ben più duri di me, eravamo commossi e alternavamo il pianto al riso. Questo episodio ci aveva rincuorato ed era stato, col senno di poi, il presagio del netto miglioramento della situazione che si ebbe dopo qualche ora. La Guardia Costiera annunciava nella notte che la depressione si era spostata verso nord. La furia del mare cominciava a decrescere e soprattutto riuscivamo in mattinata a fare un punto nave che confermava la nostra buona posizione per l'imbocco del Canale della Manica. Il giorno dopo ricevemmo l'ordine dall'armatore genovese di raggiungere Amburgo e più tardi rilevammo il faro di Land's End in Cornovaglia. La traversata dell'Atlantico poteva dirsi terminata in un tempo davvero record per una nave come quella. Ad una prima sommaria constatazione dei danni subiti dalla nave, ci erano cascate le braccia. Mi limito a dire che le due lance di salvataggio, sia quella di dritta sia quella di sinistra, non esistevano più. Al loro posto pendevano dalle gru due moncherini di legno. La stessa ciminiera, col suo bel colore rosso, era pressoché accartocciata e ripiegata verso la prua. Ma ciò che più mi aveva colpito era che le ringhiere erano per lo più divelte e la vernice, soprattutto nella zona di poppa, era sparita, lasciando in bella vista larghi spazi di ferro lucido come nuovo. Perfino la ruggine non c'era più. Alla foce dell'Elba, il pilota tedesco, una volta salito a bordo per accompagnarci all'attracco di Amburgo, non voleva credere ai propri occhi. Aveva voluto complimentarsi con ognuno di noi, stringendoci la mano, e ci ha voluto raccontare delle decine di navi e delle centinaia di pescherecci affondati dalla tempesta e anche degli enormi danni che si avevano avuti in terraferma. Ciò che mi ha colpito di più alla fine è stato che per tutti gli ulteriori 6 mesi che sono rimasto a bordo, nessun membro dell'equipaggio è mai tornato sull'argomento della tempesta. Nessuno aveva piacere a riparlare di quei giorni così terrificanti. Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Se avete amato questa storia non potete non andare a vedere la foto di Giorgio, la trovate sul nostro sito www.radio24.it, andate alla nostra pagina Voi Siete Qui, cliccate su Tifone che è il titolo della storia di oggi e trovate, oltre alle musiche che mandiamo in onda, soprattutto questa foto. La cosa bella di questa foto è che è chiaramente una fotografia di una fotografia, cioè una fotografia digitale di una foto analogica, una vecchia foto, è in bianco e nero e ha delle righe che la tagliano in mezzo, quindi probabilmente è stata spiegazzata nel tempo. È una foto che arriva da quell'epoca, dalla fine degli anni 50, ed è soprattutto una foto che arriva da una nave. Io spero sia la Continental, adesso Giorgio ci dirà meglio, e c'è lui, bellissimo, in camicia con una strepitosa onda sui capelli. Pronto Giorgio? Sono qua. Come stai? Bene, grazie, non ho più la strepitosa onda. Volevo giusto chiedertelo, non hai più questo ciuffo, vero? No, però ce li ho ancora i miei capelli. Ma quanti anni hai, Giorgio, scusami? 76. Ma è la voce di un compiuto. Ma è la voce di un 52enne praticamente. Sì. Ma quanto... Vado in ospedale tra 2 giorni. Oddio, a fare cosa, Giorgio? Scusami? A fare cosa vai in ospedale? Vado giù. Ah, vado niente, a operare una gamba, c'ho un ginocchio fuori uso. Ah, ok, quindi normale amministrazione. Sei uno sportivo? Nel senso che cammino molto, vado in bici, vado, gioco a golf e vado in bicicletta, e vado in montagna. Insomma, ne fai di robe. Però non seguo lo sport. Ma quanto ti manca quella nave? Quanto ti manca quell'epoca? Perché poi, a quanto ho capito, poi tu hai cambiato vita, giusto? Il mare l'hai un po' perso di vista. Però prima avevo navigato un po' su un'altra nave italiana. Io ho navigato praticamente quasi 2 anni. Poi sono stato dichiarato renitente alla leva mentre io navigavo. Non lo sapevo, ma i carabinieri mi cercavano. Ah. Perché ero passato dalla leva di mare alla leva di terra, perché c'era troppi marinai e troppo pochi soldati. Io non lo sapevo. E l'armatore mi ha costretto, per ordine del tribunale, di sbarcarmi al porto più vicino all'Italia. e quindi 6 mesi dopo sono sbarcato a Trieste, sono andato subito a militare. E quindi hai dovuto fare la leva sostanzialmente. Quindi ho fatto militare, ma quello che è assurdo l'ho fatto nell'esercito. Vabbè, ok. È una storia un po' complicata e un po' italiana soprattutto. Quindi preferisco rimanere là, perché io in apertura ho letto un pezzo di Tifone di Conrad, perché tu, immagino tu lo conosca, esatto, perché ricorda quella sensazione lì, quando la lunga attesa della tempesta, quando il capitano dice c'è del cattivo tempo in giro. Quando si è investiti da una tempesta così, che cosa succede a bordo? La gente del mestiere sa cosa fare, non si spaventa, rizza tutto ciò che si può muovere, va in coperta e blocca tutto perché non si deve muovere niente, tutto ciò che si sposta si rompe, quindi anche in piena tempesta, come ti ho scritto e tu hai letto, si andava a rizzare le coperture delle stive perché non c'erano i portelloni che ci sono oggi. Ecco, questa cosa me la spieghi, scusa, cioè le stive erano tenute chiuse praticamente da delle tele? No, c'erano dei tavolati di legno e ferro, però al di sopra di questi c'erano 3, 4, 5 strati di tela che erano chiusi, che le rendevano impermeabili. Cioè, solo che con vento fortissimo, lì si parlava di vento a 90 nodi, robe così. 90 nodi sono più o meno 170 km all'ora. Con raffiche così. Tra l'altro, la forza 16 di cui si parla lì era tipicamente americana, voglio dire, in Italia non si sarebbe mai detto, perché io adesso non sono aggiornato, ti parlo di allora. In Italia al massimo la forza era 13, ma in America c'erano delle situazioni eccezionali in cui saliva. Tra l'altro, scusami, io ho pubblicato sul nostro profilo Facebook, che voi siete qui Radio 24, la foto della Continental, cioè la foto della barca di cui stiamo, della nave di cui stiamo parlando. Sì, ti ho mandato quella perché c'era la scritta molto visibile. Esatto. Scusa, ci spieghi, questa era una ex nave da guerra praticamente? No, è una nave da carico. Ah, ok. Durante la guerra tra i sottomarini tedeschi e i rifornimenti americani verso l'Europa, i tedeschi affondavano, ma ogni nave che affondavano i sottomarini, 5 nuove ne uscivano dai cantieri americani, ed erano queste Liberty. Alla fine della guerra hanno riempito tutta la costa occidentale americana di queste Liberty e hanno cominciato a regalarle agli europei. Quindi di fatto erano diventati navi mercantili da carico. Portavano i rifornimenti militari all'esercito inglese, russi. Erano stati ceduti dopo guerra. Invece Giorgio, scusami, ma questo ovviamente non l'hai mai più sentito, questo marinaio napoletano, pugliese. Purtroppo no. Che si è salvato. Poi mi vergogno un po', non so come dire, non sono uno che va a cercare vecchi amici, avrei dovuto farlo, sento dei sensi di colpa per questo, ma non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto col comandante, non l'ho mai fatto col primo ufficiale, così, non so neanche se sono vivi. Insomma, sì, cioè che la vita prosegue, no? In qualche modo. Tu hai una famiglia adesso? Naturalmente, ho dei nipoti. Dei nipoti. La racconti questa storia? La racconti di solito questa storia, oppure è una cosa che preferisci non tenere per te? L'ho raccontata solo dopo avertela scritta, cioè una volta così io ho i miei nipoti e il genero che fanno surf, sì. Una volta così parlando gli ho detto: ma sapeste che surf ho fatto io in Atlantico? Perché in effetti se tu vedi i surfisti scivolare giù dall'onda, sì, certo. Era quello che capitava alla mia nave quando l'onda la prendeva. Era spinta dall'onda, certo. Giorgio, io purtroppo ti devo salutare, però ti ringrazio moltissimo perché tra l'altro non sono riuscito a leggerla, ma tu mi hai scritto una mail che diceva: probabilmente questa storia non ti interesserà perché tendi a raccontare storie legate all'attualità. Invece non è assolutamente così, ce ne siamo innamorati e te ne ringraziamo tanto. Giorgio, in bocca al lupo per il tuo ginocchio. Grazie mille. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Anche tu. Ciao. 349-238-6666. Sono arrivati dei messaggi di piccole avventure di mare. Uno di un surfista che rimane praticamente al largo perché il vento rinforza, e l'altro invece di amici con un canotto a cui salta il tappo e devono ritornare a nuoto. Nulla però a vedere con questa storia. Riascoltatela in podcast non appena sarà disponibile. Continuate a inviare storie, continuate a scrivere storie, raccontate storie, che raccontare storie è un atto politico. Io ringrazio Tiziano Boniri, ringrazio Margherita Ina e Paulino Corleoni. Ringrazio soprattutto Giorgio, ovviamente, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. tutti, mi chiamo Alessio, vivo a Grosseto e la storia di domani è la mia. Parla di un episodio accaduto 30 anni fa e con una bacchetta magica vorrei riuscire a cambiarlo. Questa è la mia storia e io sono qui.